La morte, espressione dell'amore di Dio. Un giornalista suggeriva 5 cose da fare riguardo alla morte. Primo, accetta il fatto che devi morire. Secondo, mettiti d'accordo con un impresario di pompe funebri. Terzo, prendi provvedimenti per coloro che lasci. Quarto, scrivi le tue ultime volontà. Quinto, prendi un appuntamento con Dio. Ma non so cosa suggerirvi. Questo consiglio ironico rispecchia un po' il pensiero dell'uomo che non conosca Dio. Al contrario, il cristiano spera anche nella morte, Proverbi 14:32, e sa cosa suggerire. La morte è un argomento molto imbarazzante da trattare. Come fa notare giustamente Vittorio Messori nel suo libro Ipotesi su Gesù, la morte è, con il sesso, il denaro e Gesù, uno degli argomenti che mettono a disagio in una conversazione civile. Le ragioni sono tante, prima di tutto perché parlare di morte significa affrontare un argomento triste, e poi, per dirla come Paul Tournier, nella nostra civiltà, così orgogliosa, la morte è uno schiaffo, perché la nostra civiltà vuole dimenticare i limiti divini della vita. Infine, come ha osservato Pascal, gli uomini, non riuscendo a vincere la morte, hanno finito con il non pensarci. Ma il cristiano ha qualcosa da dire al riguardo. Egli può parlare di ogni argomento, non perché sia più intelligente degli altri, ma perché, accettando la rivelazione di Dio espressa nella sua parola, egli conosce ciò che Dio si è compiaciuto di rivelare. Spesso però se ne parla solo in circostanze particolari, così, per non essere trovati impreparati, conviene di tanto in tanto affrontare questo argomento. Anzi, come vedremo, la morte dovrebbe essere uno dei temi che occupano costantemente i nostri pensieri e argomenti. Personalmente, ciò che mi ha spinto a cercare Dio e ad arrendermi al suo amore è stato proprio il pensiero della morte. Il messaggio più grande, presentato dalla parola di Dio, è che Dio è amore. Proprio per questo motivo, scrive Moody, se potessi far comprendere agli uomini il vero significato delle parole dell'Apostolo Giovanni, Dio è amore, prenderei questo versetto e percorrerei il mondo proclamandone la gloriosa verità. Se riuscite a convincere una persona che l'amate, avrete conquistato il suo cuore. Se potessimo veramente persuadere gli uomini che Dio li ama, li vedremmo affollarsi per entrare nel regno dei cieli. Parole vere, ma come conciliare questo messaggio con la realtà della morte? È possibile parlare dell'amore di Dio davanti alla morte, fonte di dolore e di separazione? Lo scopo di questo scritto è proprio quello di dimostrare che, nonostante la morte, Dio sia amore, anzi che la morte sia una dimostrazione dell'amore di Dio. Vedremo l'amore di Dio per quello che riguarda il passato, perché egli si è servito della morte per rimediare ad uno sbaglio di portata universale. Vedremo la morte al presente, quale mezzo per migliorare l'uomo. Vedremo la morte proiettata nel futuro come mezzo di perfezionamento per ciò che egli ha fatto. Prima di iniziare a parlare dell'amore di Dio, poniamoci una domanda: a cosa viene paragonato l'amore nella parola di Dio? Con quale immagine lo si potrebbe rappresentare? Billy Graham, nel suo libro Pace con Dio per rappresentare la pace, riporta l'immagine di un piccolo uccello che, nell'anfratto della roccia, dorme profondamente con la testa appoggiata sulle ali, mentre fuori infuria la tempesta. E tu come raffigureresti l'amore di Dio? Ebbene, la parola di Dio, a questo scopo, usa proprio l'immagine della morte, e, scritto, l'amore è forte come la morte. Cantico dei Cantici 8:6. La morte non lascia colui che ha preso, così l'amore di Dio non lascia l'uomo che ha creato. E, con questa premessa, proseguiamo nell'argomento. 1. La morte, nel passato, espressione dell'amore di Dio. L'uomo aveva disubbidito all'ordine di Dio, subendo come conseguenza la morte, cioè la separazione dal suo creatore. L'uomo era destinato a rimanere per sempre in quella situazione. La condanna era inevitabile, perciò Yahweh, per amore, cacciò dall'Eden Adamo ed Eva affinché non prendessero del frutto che avrebbe loro impedito di morire. La morte spirituale aveva intaccato il loro corpo, rendendo di conseguenza inevitabile il processo della morte fisica. Da quel giorno, Gli uomini di ogni epoca sono morti, non perché essi invecchiano, ma come diretta conseguenza del peccato di Adamo ed Eva. Giustamente qualcuno ha fatto notare che Gesù Cristo, venendo sulla terra, ha incontrato tre creature di cui il Padre non era il creatore: il peccato, la sofferenza e la morte. Quindi, come prima riflessione, possiamo dire che la morte non è stata creata e non era contemplata nel piano originario di Dio. Essa però è stata stabilita da Dio come atto d'amore per porre fine alla vita, fatta di separazione, della sua creatura. 2. La morte, al presente, strumento dell'amore di Dio. Perché Dio permette il male, la sofferenza, l'ingiustizia? Sono domande antiche quanto l'uomo. Sta scritto che la sofferenza migliora il cuore dell'uomo, Ecclesiaste 7, 3 a 4. Per capire la sofferenza, bisogna tener presente la corruzione e la malvagità dell'uomo. Nessuno corregge un bambino che non sbagli o assume una medicina stando bene. Dio ha permesso la sofferenza per frenare gli istinti sbagliati dell'uomo. Ogni tipo di sofferenza, compresa quella dovuta alla morte, migliora il cuore dell'uomo in due direzioni. Gli ricorda innanzitutto la sua fragilità, Salmo 90, 3 a 6, che, prima o poi, dovrà incontrare Dio, Ecclesiaste 12, 1 a 2, che non può gestire le vicende della vita, Geremia 10 e 23, che più volte nella vita è scampato dalla morte, Salmo 68, 2 a 0, che un giorno non tutti moriremo, ma saremo trasformati, 1 Corinzi 15 e 51. Inoltre, la morte ricorda all'uomo di non attaccarsi smodatamente sia ai beni materiali che agli affetti terreni, che, prima o poi, lascerà. Matteo 10 e 37, Salmo 49, 10. 3. La morte, proiettata nel futuro, permetterà all'amore di Dio di perfezionare ogni cosa. Dio aveva creato ogni cosa bene, ma il peccato ha corrotto ogni cosa. Stabilendo la morte, Dio aveva impedito che l'uomo rimanesse per sempre separato da lui. Egli, al presente, usa la morte per migliorare l'uomo. Ma l'obiettivo finale è completare la sua opera. In effetti, dopo la morte, colui che abbia posto fede in Gesù Cristo sarà esente dal dolore e avrà riposo, Isaia 57:1, risorgerà con un corpo nuovo, senza malattie, 1 Corinzi 15 e 53. Avrà l'occasione di essere premiato, 2 Timoteo 4:8, dimenticherà ogni esperienza dolorosa, Isaia 65 e 17, sarà separato per sempre dai malvagi. Luca 16 e 26. Ecco perché è scritto, nel Salmo 116, 15, che la morte dei santi è preziosa agli occhi di Dio. Non si dice che essa sia preziosa agli occhi dell'uomo, perché egli è legato agli affetti terreni, e ogni distacco affettivo è, e rimane, sempre, per lui un dolore, che può protrarsi anche per tutta la vita. Solo entrando nel Tempio di Dio, siamo in grado di staccarci dalle cose terrene. Charles G. Finney soffriva per la perdita della moglie, ma, mentre parlava con Dio in preghiera, ebbe con lui questo dialogo. «Amavi tua moglie?» Sì, l'amavi per se stessa o per te? Se l'amavi per se stessa perché ti affliggi, non dovresti invece rallegrarti per la sua felicità? Con questa risposta Finney trovò la pace. Sì, se la morte dei santi è preziosa agli occhi di Dio, allora deve diventare preziosa anche agli occhi dei suoi redenti. In Ecclesiaste 7, 1, leggiamo che il giorno della morte vale meglio del giorno della nascita. La vita è un dono, ma la morte è un dono ancora più grande, perché ci permette di entrare in possesso delle grandi promesse di Dio. Mentre soffriamo per il distacco di un nostro caro, in quel momento, se ha creduto in Gesù Cristo, egli sta godendo la completa presenza di Dio e delle sue promesse, reagendo di fronte alla morte. Per quello che essa produce nel defunto, i cristiani dovrebbero far festa, anziché cordoglio. Non ci si rallegra per due giovani che diventano sposi? Forse in quel giorno si ha un dolore ai denti, un affare? Non è andato bene, i figli a casa sono ammalati, ma ci si rallegra lo stesso per gli sposi e non per la nostra realtà. Il nostro atteggiamento di fede e di speranza di fronte alla morte, un servizio cristiano, libero dal timore della morte, Ebrei 2,14, dimostra quanto abbiamo capito di Dio e del suo amore. Con queste riflessioni non si vuole nascondere una realtà. La morte rimane, anche per il cristiano, un nemico, l'ultimo nemico, 1 Corinzi 15,26. Ho spesso parlato con dei credenti che si sentivano a disagio, se non colpevoli, perché avevano paura della morte. Parlando con loro, sono riuscito a mettere a fuoco il problema. Non era tanto della morte che essi avevano paura, ma del modo in cui questa potesse presentarsi. Sì, un cristiano può avere paura di morire per le torture e per un tumore, ma egli non teme la morte in sé, perché ha la testimonianza dello Spirito di andare alla presenza del suo Salvatore. Esiste questo contrasto nel nostro cuore e dobbiamo saggiamente accettarlo. Mi ha fatto del bene leggere la testimonianza di Paul Tournier nel suo libro La forza dell'ascolto, dove questo medico racconta l'esperienza della morte della moglie. In due righe ha espresso l'accaduto. È morta tra le mie braccia, sapendo di morire, avendo espresso la sua paura della morte e anche la sua speranza nella resurrezione. Sì, morire è come nascere, si entra in una dimensione diversa, in un mondo, in parte, a noi sconosciuto. Perciò la speranza è unita al timore. Grazie alla morte, però, conosceremo appieno quanto siamo stati amati, perché Dio è amore. Egli non lo è diventato, lo è, e la morte fa parte di questa espressione del suo amore. Cosa avviene subito dopo la morte? E una domanda che ci siamo posti in molti, proprio perché è un'esperienza che non tutti possono raccontare. Trovo interessante l'opinione del dottor Paul Tournier nel libro citato, e gli chiede: avete mai letto il libro del dottor Raymond Moody, La vita oltre la vita? Egli ha interrogato persone che erano morte e poi tornate in vita per mezzo della tecnica medica. Naturalmente non erano ancora nell'aldilà, poiché erano risuscitate, ma esse avevano comunque fatto i primi passi verso l'aldilà. Su questi minuti che seguono la morte, tutte le testimonianze concordano. Le persone che erano state considerate come morte dal medico riportano che hanno avuto l'impressione di galleggiare sul soffitto e che hanno visto il medico e gli infermieri piegati sul loro cadavere. Hanno sentito dire dal medico: è morto. Vi è dunque una persistenza della coscienza, di là della morte clinica, prima ancora che si apra la porta dell'aldilà. Vi è dunque un momento di attesa tra la vita e l'aldilà. Non possiamo seguire oltre i morti, ma vi è una certa pausa tra i due momenti. In tutti i casi, io non desidero morire all'ospedale, ma essere in famiglia e sapere che si sa che io so ciò. Che so, una morte cosciente. Le riflessioni di Paul Tournier hanno trovato eco nel mio cuore. Anch'io credo che, subito la morte clinica, vi sia un momento di attesa tra la vita e l'aldilà. Che dopo che si è cessato di respirare, la nostra anima non lasci subito il nostro corpo. Questo fatto viene confermato anche dai becchini. Più di una volta essi hanno riesumato delle salme con le mani nei capelli. Purtroppo queste persone erano state dichiarate morte, ma l'anima non aveva lasciato il corpo, quindi quando si riebbero, si trovarono nella bara. Un caso in cui l'anima non lascia subito il corpo dopo la morte clinica è quello del giovane Eutico, raccontato nel Libro degli Atti. In esso leggiamo: il primo giorno della settimana, essendosi i discepoli radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, conversava con loro e protrasse il discorso fino a mezzanotte. Or nella sala, dove eravamo radunati, vi erano molte lampade. Un giovane di nome Eutico, che era seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo e, mentre Paolo tirava il suo discorso a lungo, preso dal sonno, cadde dal terzo piano e fu raccolto morto. Ma Paolo, sceso giù, si gettò su di lui. L'abbracciò e disse: non vi turbate, perché l'anima sua è in lui. Atti 20:7-10. Mi ha raccontato una persona anziana che, in un paesino di campagna, quando ella aveva 12 anni, durante il trasporto di un morto, sentirono dei colpi derivare dalla bara. Con un comprensibile spavento e timore, tolsero il coperchio, trovando viva la persona. Questi episodi mi hanno portato a maturare una convinzione. Che la pausa tra la vita e l'aldilà possa durare più di 36 ore, ma non superi i 3 giorni, cioè le 72 ore. Questo perché Gesù morì e risuscitò dopo 72 ore. Perché si possa essere sicuri di una resurrezione, occorre essere certi anche della morte. Se l'intervallo di 3 giorni non desse la sicurezza che la morte sia avvenuta, si potrebbe mettere in dubbio la resurrezione di Gesù. Lo stesso dicasi dei 2 testimoni, dei quali si parla nel libro dell'Apocalisse, capitolo 11. In esso leggiamo che verranno uccisi dalla bestia che sale dall'abisso, ma, dopo 3 giorni e mezzo, risusciteranno. Lo stesso periodo di tempo di Gesù. Proprio perché vi è la sicurezza che, dopo 72 ore, la morte sia avvenuta, sarebbe opportuno seppellire i morti dopo tale periodo dalla morte clinica. Come quindi affrontare la morte nel modo giusto? Dio ha provveduto anche a questo. La nostra vita può essere considerata come un processo che ci porti gradualmente a familiarizzarci con la morte, come una scuola che insegni l'arte di morire. Le fotografie, per esempio, ci rivelano che la vita consiste nel dire continuamente addio a luoghi meravigliosi, a persone che si sono amate, ad esperienze bellissime. Come il susseguirsi delle stagioni. Ci ricordano che niente sia stabile e duraturo. Tutti i momenti passati se ne sono andati. Come amici che ci abbiano fatto una breve visita. Ad ogni arrivo è presente un commiato. In ogni congiungimento è presente una separazione. Col processo di crescita si diventa vecchi. In ogni sorriso ci è una lacrima. In ogni successo ci è una sconfitta. Questo alternarsi di fatti ci spinge ad essere attirati verso cose durature, eterne. Quindi, la morte giornaliera e quella finale, benché siano realtà dolorose e a volte traumatiche, sono strumenti d'amore che Dio usa per attirarci a sé, perché in Lui non vi è morte, ma vita eterna. 198. Gennaio 2003. Contributo. Diario di un dolore, Lewis Ellero.